vita inferno all'infelice, in vano morta da Dio. Del mio tenor Leonor. pietà del mio penar, Leonora mia. Pietà del mio pena. Occorrimi di me, io.